e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, buongiorno a tutti, vi siete rinfrancati dopo questo bel ponte del primo maggio. Vabbè, a me è andata un po' meglio, ma Nicoletta, so che qua il tempo è stato davvero impietoso. Terribile, soprattutto ieri, ecco. Ma tanto io sono stata a letto 3 giorni ammalata, adesso sto meglio. Ti vedo rinfrancata, mi sono rinfrancata un paio di giornini di vacanza. Detto questo, ritorno con una borsa molto brillante, perché la settimana finanziaria, che ieri è stata ovviamente in pausa, riparte bene, tutti gli indici in rialzo, particolarmente Milano che guadagna lo 0,4%, molti dati macroeconomici che arrivano oggi, inizia la riunione del Federal Open Market Committee, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, che termina domani con l'annuncio sui tassi di interesse, e poi occhio anche alla vigilia del ballottaggio, siamo ormai a ridosso del ballottaggio delle presidenziali francesi e vedremo, insomma, domenica 7 maggio che cosa accadrà, cosa decreterà l'elettorato transalpino. Intanto a Milano i migliori titoli: STM più 1,55, Unicredit più 1,41, Azimut più 1,40. Sulla borsa ci torniamo alle 11.30. Il tema di approfondimento di denari di stamattina è l'operazione APE, anticipo pensionistico, doveva partire tutto a maggio, non parte praticamente quasi un bel niente. Dovrebbe partire l'APE social, la prima fase di questa grande operazione, ma anche qua, insomma, sono molti i correttivi che sono stati chiesti dal Consiglio di Stato, e Andrea Carbone di Progetica stamattina ci racconterà tutto. Intanto buongiorno. Siamo contenti, Andrea, vedi, buongiorno. Poi Carbone è una garanzia. Sì, io l'ho chiamato apposta, devo dire che ho fatto una gran selezione nel mondo di Progetica, dico, se non me ne mandate uno che si chiama Carbone non faccio un bel niente. Brava. Invece nuovo mese, nuovo tema, sempre a fianco degli esperti Humanitas, continua la nostra iniziativa La Salute Ben Parlando, per chi non ne avesse ancora sentito parlare. Riassumo rapidamente, si tratta di un progetto che nasce con l'obiettivo di raccontare la salute attraverso un filo diretto con il medico, quindi avete una domanda, un dubbio, una storia da raccontare o da segnalare, anche una curiosità, qualcosa che non vi torna, vi preoccupa, scrivete a salute@radio24.it oppure lasciate un WhatsApp vocale, le vostre richieste saranno soddisfatte. Non avete nulla da chiedere? Forse qualcosina da imparare o rinfrescare? Andate sulle nostre pagine a riascoltare l'intervento dei nostri esperti. Questo mese ci occupiamo del nostro naso e quindi della nostra gola, orecchie, bronchi e polmoni. Facciamo, per così dire, le cose in grande, parliamo dell'apparato respiratorio. Non uno ma due esperti qui a partire dalle 11.15 per parlare di rinite, non solo, ma anche di allergie stagionali. Avete sentito che la composizione della flora batterica intestinale potrebbe essere implicata nell'insorgenza dei disturbi allergici? Restate con noi. Sì, avremmo uno stacchetto, no, ma evidentemente... Ho fatto io un pasticcetto perché mi colava il naso e allora ho schiacciato lì, era preoccupato. Ma noi ha detto... ce la caviamo lo stesso, stacchi, canto non io? Stanchi. Cosa? Canto allora, io? Ce l'hai una canzone pronta sulla pensione? Quando in pensione io me ne andrò in genere, prendiamo quella, forse prevista più tardi, ma non importa. Allora, andiamo all'APE. L'APE qualche volta la decliniamo al femminile, qualche volta al maschile, ma è maschile perché è l'anticipo pensionistico. È arrivata proprio pochi giorni fa la firma del primo dei 3 decreti del Presidente del Consiglio previsti per dare attuazione alle norme sull'anticipo pensionistico. Si tratta di quelle norme che regolano l'APE social, l'indennità ponte per i lavoratori disoccupati con almeno 63 anni di età e 30 di contributi che si trovino in condizioni di difficoltà, come per esempio un ammortizzatore sociale scaduto, a poco più di 3 anni, esattamente 3 anni e 7 mesi massimo dalla pensione. Ora il testo deve superare il vaglio del Consiglio di Stato, che però ci ha già messo lo zampino prima di approdare in Gazzetta Ufficiale. Restano ancora in fase istruttoria i provvedimenti che regolano invece l'APE volontaria e la riduzione dei requisiti contributivi per lavoratori precoci. Insomma, una situazione che è piuttosto complicata, alla quale sono appesi diverse migliaia di lavoratori pronti appunto ad andare in pensione. Qualche dettaglio in più rispetto a quello che accadrà a breve tra i pensionandi italiani è stato dato proprio in occasione della manifestazione Tutto Lavoro del Sole 24 Ore qualche giorno fa, ma visto che a questo punto si sta provando a partire, anche se con forte ritardo rispetto alle tabelle di marcia iniziali del governo, è tempo di entrare nel merito delle novità che sono sulla rampa di lancio. Allora risalutiamo l'amico Andrea Carbone di Progetica grande esperto di temi previdenziali. Ben ritrovata, Andrea. Ciao. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Ciao. Allora, intanto, naturalmente, per tutti coloro che sono interessati a questo anticipo pensionistico, siamo pronti anche a rispondere alle vostre domande all'800 24 00 24. Sono come dire, questioni sulle quali è molto difficile dare delle indicazioni puntuali, private, personali, perché ognuno ha una situazione a sé. Ci proviamo, naturalmente, poi come sempre Andrea ci aiuta anche in privato a rispondere alle questioni un po' più complesse e molto molto particolari. Andrea, intanto, secondo stime governative, quanti sono i disoccupati che potrebbero beneficiare della APE Social? Partiamo da questa, perché questa è quella un po' più pronta a partire delle altre, anche se in realtà, come dicevo prima, il Consiglio di Stato qualche richiesta di correttivo l'ha già portata avanti proprio negli ultimi giorni della settimana scorsa. Esatto, per l'APE Social ci siamo quasi, doveva partire ieri, il primo maggio, probabilmente gli ultimi decreti verranno approvati nel corso di questa settimana. Secondo le stime si parla di qualche decina di migliaia, chi dice 30.000, 35.000, si tratta comunque di una platea abbastanza circoscritta e ben identificata che potrà approfittare di questa iniziativa che comunque è temporanea e sperimentale, quindi non si tratta di una riforma strutturale che riguarda tutti, ma si tratta di un qualcosa che è entrata in vigore ieri, nonostante manchino ancora di fatto, quindi è entrata in vigore per finta, degli attuativi ancora, che consentono effettivamente di entrare e di apprezzare questo meccanismo, che consente di anticipare, come dice il nome, il momento, diciamo, dell'entrata in pensione, in realtà quello di percepimento di un assegno pensionistico. Esatto. Quindi riandiamo di nuovo all'ABC di questa operazione. Che cos'è l'APE e che cos'è quella social? Allora, l'APE per tutti è un meccanismo che riguarda soltanto coloro che compiranno almeno 63 anni a partire da ieri fino al 31 dicembre dell'anno prossimo, quindi 2018. Quindi primo requisito da ricordare bene, da tenere bene a mente, quello anagrafico. Esattamente. 63 anni di età. Bisogna essere in questa fascia d'età. Mm. Perché? Perché è possibile anticipare rispetto al normale requisito di vecchiaia, che è 66 anni e 7 mesi, in funzione della proprietà. Quindi esatto, se un ascoltatore facesse gli anni oggi, avrebbe 63 anni, potrebbe teoricamente iniziare da oggi un'APE e quindi anticipare di 3 anni e 7 mesi il momento della pensione. Poi, i contributivi? I contributi. I contributi dipendono dalla tipologia di APE. Per quanto riguarda l'APE Social, è una misura che di fatto non è un vero e proprio prestito, perché è una misura di assistenza dove lo Stato offre a chi è in particolari condizioni, quindi in occupazione di lungo periodo senza altri ammortizzatori sociali, disabilità propria o disabilità di un familiare, sempre quindi situazioni gravi e delicate, bisogna avere almeno 30 anni di contribuzione alle spalle, quindi è una soglia abbastanza elevata, sì, che non tutti magari possono avere. Si tratta anche di eventualmente lavoratori di attività gravose, in questo caso la soglia di 36 anni di contribuzione, quindi una soglia ancora più alta. Ecco, questa platea, a patto che non abbia un assegno pensionistico superiore a 1.500 euro lordi, ecco, può aderire a questa forma di anticipo che di fatto non ha nessun costo e nessun prestito di sorta, perché come è lo Stato. Volontaria. Esatto, perché è lo Stato che si occupa di tutto. Allora andiamo proprio a questo aspetto, l'ultimo indicato, attività professionale particolarmente gravosa, perché mi pare per esempio che proprio il mondo degli operai agricoli sia tra i punti che sono oggetto dei cambiamenti chiesti dal Consiglio di Stato appunto negli ultimi giorni della settimana scorsa. Poi quali altri correttivi si renderanno necessari, il che ci lascia immaginare che naturalmente l'APE Social, pur virtualmente entrando in vigore da ieri, non riuscirà ad essere operativa invece a breve. Sì, ci sono due aspetti. Il primo è proprio tecnico. Entrando nel merito, il Consiglio di Stato ha visto che ci sono delle aree di interazione tra misure già esistenti di supporto all'inoccupazione e quello che sarebbe l'APE. Quindi per alcune categorie professionali si tratta di definire i confini, che sia il mondo agricolo o altre situazioni. Un'altra indicazione è che in realtà potrebbe essere comunque a valere dal primo di maggio, anche se partirà più avanti, quindi ci potrebbe essere, certo, una sorta di compensazione. Retroattività, sì, esatto, proprio perché è una forma sociale, si parla, qualcuno dice, un po' come la NASPI, come un'indennità di disoccupazione, quindi fa parte di quella famiglia di misure a supporto. Proprio per questo apparentemente ci potrebbe essere anche una sorta di retroattività. Questo ribadiamo solo, certo, per l'ape sociale. Ma quali altri correttivi ha chiesto il Consiglio di Stato? Che correttivi ha chiesto? Beh, di valutare quali sono i minimali contributivi, quali sono un po' tutte le varie situazioni che portano a definire la situazione. In realtà per le disabilità pare che siano state definite i grado di disabilità, quindi superiore al 74% per quanto riguarda i parenti. Si tratta di aspettare, qualcuno dice ore, magari oggi già nel pomeriggio uscirà qualcosa, qualcuno dice entro la fine della settimana, di avere tutti i dettagli. Però chi avesse i requisiti e volesse già far domanda all'INPS, direi che è il caso di aspettare. Qualora avessimo i provvedimenti operativi che recepiscono i suggerimenti del Consiglio di Stato a breve, poi la domanda come si deve fare, a chi si inoltra, entro quanto si ha una risposta, le tecnicalità insomma dell'operazione quali sono? Allora, la domanda doveva essere da ieri fino al 30 giugno. In realtà, proprio in virtù di questi ritardi, si dice che il 30 giugno la scadenza verrà portata avanti di un mese, quindi si arriverà al 31 luglio. Da un punto di vista poi operativo, l'INPS, da quello che si è capito, dice di essere comunque pronta con le circolari operative che poi indicheranno le varie sedi sul territorio di come comportarsi. Ci dovrebbe essere un simulatore messo a disposizione dall'INPS, quindi diciamo tutta la parte modulistica poi dovrebbe andare di conseguenza in parallelo con l'entrata in vigore, ci auguriamo a breve. 800 24 00 24, il numero verde per i nostri ascoltatori che vedo già pronti ad intervenire. Non sull'ape sociale, la domanda di Ignazio De Ancona ci dà invece l'opportunità di entrare nel mondo dell'ape volontaria, quindi l'operazione che riguarda un numero molto più consistente di lavoratori pronti a percepire appunto l'assegno pensionistico. Ignazio, con affetto, buongiorno da Ancona. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Debora. Buongiorno. Allora, affetto ricambiato. Lo so. Allora, che domanda abbiamo per il nostro Andrea Carbone? Allora, sono un libero professionista, comincio a essere un po' stanco, ho 68 anni e dalla mia cassa nazionale mi hanno fatto sapere che potrò andare in pensione a 70 anni con un minimo di 900 euro oppure a 73 anni con un assegno maggiore. Volevo sapere se anche per i liberi professionisti sussiste la possibilità di fare ricorso all'ape volontaria. Ignazio, prima un attimo. Domanda. Allora, c'era già subito una perplessità di Andrea Carbone che atteneva all'ente previdenziale che erogherebbe la pensione in caso di Ignazio. Sicuro che sia l'INPS? No, la Cassa Nazionale Ingegneri e Architetti. Apposta chiedo se è possibile anche per noi. Vedo qua subito un diniego di Andrea Carbone. Questi Carbone sono un po' severi. Un attimo Ignazio, poi andiamo alla seconda parte della domanda. Uno dei requisiti base per poter aderire all'APE è di essere un lavoratore all'interno del perimetro INPS, quindi lavoratori dipendenti, autonomi, artigiani commercianti, lavoratori pubblici, gestioni separate, partita IVA, ma all'interno del perimetro INPS. Ignazio, questa risposta cancella la seconda domanda oppure... Come mi viene spontaneo da dire, te pareva che... All'anconetana e te pareva. E quindi che cosa si fa? Si continua ancora a lavorare andando un po' al mare al Conero, si rende un po' più leggero questa prospettiva professionale e ce la facciamo andare bene? Sempre nella speranza di incontrare amici con cui condividere queste nostre disavventure. Mi faccio vedere, promesso, al più presto. Ignazio, grazie per essere stato... L'importante è che stai bene, ho sentito che hai avuto... Vabbè, che cosa? È la Carbone che non mi è stata bene nel weekend. Ma sono stata benissimo. Adesso vengo anche al Conero così mi rinfresco. Abbiamo la pausa intanto, grazie ad Ignazio. Poi è pronto Mauro dalla provincia di Alessandria, ma abbiamo già detto che la domanda di Ignazio ci dava l'opportunità di entrare nel mondo invece dell'ape volontaria, che peraltro ha anche un'altra declinazione, che è quella aziendale, nella quale io mi sono imbattuta studiando prima di partire per la 2 giorni di vacanza venerdì scorso, e che in realtà devo ammettere mi era sfuggita che ci fosse anche questa opportunità. Ma non deve sfuggirci che è tempo di dare la linea al traffico tra poco. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Cuore e denari. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai. Ah, è questa che volevi quella cantarmi? Quella lì, ma non la sai ancora? No, non l'abbiamo ancora imparata. Mi veniva. Andiamo alla... il rialzino Paolo, vedi? Perché ormai la sa a memoria pure lui. Allora, andiamo all'APE volontaria, l'assegno pensionistico appunto anticipato per chi ha determinati requisiti, accantonata la fase social che dovrebbe essere la prima a partire, speriamo a breve, speriamo che vengano recepiti al volo i suggerimenti correttivi dati dal Consiglio di Stato negli ultimi giorni per far partire subito questa opportunità per i lavoratori che naturalmente rispondono a determinati requisiti e di condizione anche tra virgolette sociale. Andiamo all'APE volontaria, dicevamo. Allora, Andrea Carbone, prima di sentire la domanda di un altro ascoltatore che si è messo in lizza per intervenire in diretta, Mauro dalla provincia di Alessandria, all'800 24 00 24, ribadiamo ancora una volta i requisiti per chi volesse usufruire di questa opportunità: anagrafici e contributivi. Allora, il requisito anagrafico per l'APE è esattamente lo stesso, volontario, quindi bisogna avere, compiere 63 anni all'interno del periodo di sperimentazione, da ieri 1 maggio fino al 31 dicembre 2018, bisogna avere almeno 20 anni di contribuzione alle spalle e avere un assegno pensionistico in conseguenza del meccanismo dell'APE superiore a circa 700 euro lordi. In questo caso scatta il meccanismo del prestito. Esatto. Quindi non c'è stato che interviene in questo caso con nessun tipo di agevolazione, ma bisogna, sì, perché fa così con la manina? Perché comunque c'è un'agevolazione da parte dello Stato in termini di sgravi fiscali. Esatto, quindi un po' funge da raccomanda un po' il lavoratore che vuole fruire di questa opportunità. Non ci scherziamo molto, perché in realtà qua c'è un prestito finanziario in ballo che il lavoratore appunto deve chiedere, un'anticipazione dei soldi che percepirebbe in futuro, che gli consentono appunto di andare in pensione in anticipo. Allora qua scatta un po' tutta la domanda. Il prestito è erogato da intermediari finanziari. Nei giorni scorsi c'è stato anche proprio un incontro, credo in sede INPS o al Ministero dell'Economia, con tutte le varie ANIA, quindi Associazione delle Banche, Associazione delle Assicurazioni, e quindi già qua scatterà subito la polemica, ecco, un altro regalo alle banche, speriamo che non lo sia, però la domanda va fatta in ogni caso all'INPS, Andrea. Sì, l'interlocutore sarà sempre solo l'INPS, quindi questo assegno di anticipato viene recepito e percepito da parte dell'INPS, dietro c'è una banca, un istituto finanziario che eroga il prestito e a partire dal 66esimo anno e 7 mesi il prestito viene restituito come dall'INPS che trattiene una parte, quindi fisicamente il cittadino avrà sempre soltanto un rapporto con l'INPS. In realtà dietro c'è un meccanismo di prestito che è un capitale che viene dato per i 43 mesi o 30 mesi o 24 mesi di anticipo, e poi c'è anche una componente assicurativa. Perché? Perché quel prestito va garantito nel caso che in cui non possa più rimborsarlo per nell'arco dei 20 disgrazie anni future, appunto, il lavoratore che ne ha beneficiato. Allora, l'erogazione del prestito, in realtà c'è stata molta discussione anche a proposito appunto dei costi di questo finanziamento, perché come per tutti i prestiti ci va pagato un certo tasso di interesse oltre che il tema dell'assicurazione, però ecco, sono ovviamente dei tassi più vantaggiosi rispetto ad un prestito normale, ma di quanto vantaggiosi ne siamo sicuri, Andrea? Beh, allora, questo è proprio uno dei temi del contendere, quindi se l'APE social è quasi addirittura d'arrivo, per l'APE volontario bisogna ancora mettere insieme questi ultimi tasselli. Diciamo che il tasso negoziato è quello che un l'INPS, diciamo il pubblico, può negoziare con il sistema finanziario. Si parla di numeri intorno al 2,75-2,8% come tasso di interesse su questo prestito. È un prestito a tasso fisso che rimane naturalmente fermo per tutta la durata del finanziamento. Sì, perché di fatto viene subito dato un capitale che poi viene restituito in 20 anni. In più bisogna anche restituire la componente assicurativa che farà parte del prestito. È come se fosse un premio unico per coprire assicurativamente questo prestito. Quindi invece del TAN andrà considerato il TAEG, cioè tutto il costo complessivo del finanziamento. Perché la copertura assicurativa è intorno al 30%, chi dice il 29%, chi dice il 32%, però diciamo circa il 30% del valore del prestito, quindi il capitale che verrà usato per quei 43-24 mesi, ha bisogno di questa copertura assicurativa, perché naturalmente siamo in là con gli anni e quindi il meccanismo assicurativo è infatti normalmente legato alla speranza di vita e alla longevità. Un po' più oneroso naturalmente. Allora, questo è un po' l'aspetto che devo dire anche a microfoni spenti, così discutevo con Andrea, che è quello che secondo me va proprio valutato con grande attenzione, perché in una condizione di emotività e di fragilità come quella che probabilmente hanno le persone pronte ad andare in pensione, vedono sfuggirsi l'assegno per tutta una serie di interventi fatti necessariamente dallo Stato, passato, ecco, arriva questa opportunità, magari la si coglie al volo, fatevi dei gran calcoli di convenienza, perché ricordate che ad un certo punto adesso andate in pensione subito e quindi siete contenti, magari vi riuscite a mettere a disposizione della vostra famiglia, poi però questo denaro va restituito, l'assegno diventa un po' più magro in avanti e magari adesso non siamo nelle condizioni emotive di valutare questa situazione, per cui mi raccomando soprattutto questo. Poi nessuno ha da dire niente su questa opportunità, se c'è naturalmente l'importante che se ne conoscano bene tutte le condizioni. Mauro, eccoci a lei, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a entrambe, grazie per avermi richiamato. Grazie a lei. Ci dica. Allora, sono insegnante, ho 62 anni, compio gli anni, ahimè, a dicembre. Tocca a tutti, volevo tanto Mauro, guardi, non è che il compleanno. No, volevo sapere, visto che noi insegnanti abbiamo solamente un giorno di finestra all'anno, che è il primo di settembre. Di settembre, sì. Ecco, mi che l'insegnante deve garantire tutto l'anno scolastico, quindi sì, c'è questo principio. Questi tre mesi che mancano me li abbuonano oppure devo farmi un anno in più? Questa è la prima domanda. La seconda velocissima è la liquidazione. Da quando parte il periodo dei 27 mesi di ritardo? Allora, voi avete il trattamento di fine servizio, Mauro, è una situazione complicata, so per esperienze anche di amiche che effettivamente vedono il trattamento di fine servizio, il TFS, molto molto in avanti nel tempo. Mauro, però non è questa la trasmissione. Allora, intanto anche i lavoratori pubblici, quindi anche il mondo della scuola, può aderire all'opportunità dell'assegno pensionistico, appunto dell'anticipo pensionistico. Sì, Andrea, in quanto appunto dipendenti pubblici che fanno parte ormai dell'INPS. Le regole sono le stesse, gli insegnanti hanno la caratteristica di avere chiaramente l'annualità tarata su settembre, in questo caso scolastico. Nostro Mauro ha detto ahimè compio gli anni a dicembre e quindi mi sembra di aver capito che quest'anno ne farà 62, quindi comunque se ne fa 63 credo, 63 a dicembre. Sì. Non si parla di abbuoni al momento nei decreti che arriveranno. Quindi dovrà aspettare settembre, deve finire l'anno scolastico. Al momento non può mollarlo lì. Salvo che non qualcuno... ne può proprio più di questa scolaresca il nostro amico Mauro. Detto questo, magari ci documentiamo un po', però mi pare di capire che non ci sia nessun diciamo abbuono per fa nessuno. Fa parte della platea comunque dell'APE, perché l'APE va avanti fino al 31 dicembre dell'anno prossimo. Del quindi i 63 anni li compie, però probabilmente resterà legato alle finestre dell'anno scolastico. Deve aspettare, fare tutti gli scrutini fino a giugno e magari portarli all'esame, Mauro. Allora, vediamo se ce la facciamo anche a sentire Carlo Alberto da Vicenza. Se non ce la facciamo a rispondere, ci trasferiamo poi nella seconda parte della trasmissione, ma magari ce la facciamo. Carlo, buongiorno. Sono qua. Buongiorno signore e buongiorno dottore. Eccoci. La mia domanda è questa. Io compio 63 anni il prossimo marzo. Sì. Per cui rientrerei, stando ai parametri che si vedono nel discorso anagraficamente, dell'APE sociale. Ah, ecco, sì. Perché? Ecco. Che requisiti ha anche? È disoccupato, allora, mi pare, sono Carlo. Disoccupato dal 2010. Volevo sapere se ci sono problemi o se posso percepisce un'indennità? Assolutamente nulla. Ah, ecco, perché il tema è questo. Andrea Carbone, c'è un legame anche tra la richiesta dell'APE sociale e la concreta percezione della ASPI, NASPI, eccetera? È proprio ciò di cui si sta parlando in questi giorni, mettendo i confini tra queste situazioni. L'APE sociale dovrebbe essere riservato a chi oggi non ha nessun'altra forma di nessun ammortizzatore, di tutela, sociale, nessun ammortizzatore esatto. sociale. Quindi Carlo, cioè serve per questo, noi ci naturalmente speriamo che... A patto di avere 30 anni, ricordiamolo, di contribuzione, che chiaramente consentono di accedere all'APE sociale. Carlo, ce li ha? Sì, sono 34 e rotti gli anni. Perfetto, quindi Carlo, per lei a marzo prossimo dovrebbe aprirsi l'opportunità, purtroppo deve aspettare ancora un bel po' di mesi. Quello vabbè. Lo so, era solo per capire se ne avessi un po' requisiti. Più sicuro, ecco, perché certo. Si sentono tante voci che una che dicono volta sì, sembra no. di sì, una volta sembra di no. Va bene, Carlo ci scriva cuoredenari@radio24.it, così la terremo al corrente di tutte le novità che arriveranno proprio nei prossimi giorni. Intanto c'è Mario da Palermo, però sono anche le 11.57, dobbiamo andare a sentire il giornale radio. Partiamo con noi, dopo il GR. Esatto, tra l'altro volevo anche segnalare che l'INPS ha predisposto un simulatore per calcolare la convenienza o meno di aderire all'APE volontaria, quindi andate ad utilizzare questo servizio che è molto utile. Poi andremo all'APE aziendale. A tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da... Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Cuore e denari. Una volta è successo un fatto, io lo ricordo, ero un bambino, mio padre aveva 49 anni, stava per andare in pensione perché all'epoca si andava a 49 anni. Ci fu un disegno di legge che diceva di prolungare l'età pensionabile dai 50 ai 55. Quindi mio padre ci rimase male, perché dopo due telegiornali, non lo capì subito, al secondo telegiornale l'ha capito. Ma sì, insomma, una gag di Enrico Brignano che ci richiama all'attenzione sul tema di questa mattina. Pensioni, l'anticipo pensionistico, sta entrando ormai, come dire, nel vivo il dibattito su questo argomento, non sta diventando operativo ancora tutto il processo che porta alla richiesta di questo anticipo, dovrebbe essere imminente l'emanazione dei provvedimenti attuativi definitivi almeno sull'ape social, ci siamo già andati nel dettaglio nella prima parte della trasmissione, adesso siamo all'ape volontaria, un po' più complicata perché richiede la necessità appunto di opzionare un prestito che copra questa parte in cui l'INPS non può fare la sua parte. Sintetizzo molto, Andrea Carbone, e qui eravamo adesso, ci siamo lasciati proprio su questo punto nell'altra parte della trasmissione, perché volevamo fare un calcolo di convenienza, aiutare i nostri ascoltatori a capire se, avendo i requisiti anagrafici e contributivi, se l'operazione è costosa o meno, visto che si tratta di un prestito a pieno titolo che ha anche necessità di sottoscrivere una copertura assicurativa, e quindi qua come si fa a fare un calcolo di convenienza. Allora, abbiamo detto che l'INPS ha il suo simulatore, ma ce l'ha anche Progetica, più o meno i requisiti, le informazioni che l'INPS chiede sono le stesse che chiedete voi. Andrea, proviamo a fare appunto una simulazione per un nostro ascoltatore, ammettendo di così proprio avere una condizione estrema, 63 anni compiuti ieri e 30 anni di contributi, quindi l'anticipo chiesto è pieno, 3 anni e 7 mesi. Come si fa a calcolare se questa operazione, come dire, ci dà una botta in testa importante o meno dal punto di vista economico? Allora, l'invito è quello di, appena sarà disponibile, andare sul sito dell'INPS e vedere i numeri stimati dall'Istituto Nazionale Pensionistico. E abbiamo fatto un esempio per chi chiedesse 43 mesi di anticipo, quindi quello massimo, chiedendo che cosa? Una percentuale, perché si può chiedere il 75% al massimo dell'assegno pensionistico che si meriterebbe senza aderire all'APE. Allora, come si ragiona? Si confronta la situazione senza anticipo pensionistico e abbiamo simulato una persona che compie esattamente 63 anni e avrebbe 1.300 euro circa al mese netti senza l'anticipo pensionistico. Se invece chiede l'anticipo pensionistico, avrebbe una quota inferiore. Lui avrebbe questi quasi 1.300 euro se andasse in pensione dopo 3 anni, cioè a 66 e 7 mesi. Ecco, questo sarebbe l'assegno pieno. Invece, se vuole anticipare di 3 anni e 7 mesi, avrebbe non più 1.300 euro, ma 830 euro per 43 mesi. Quindi disporrebbe di questa cifra da subito. Poi, raggiunti 66 anni e 7 mesi, per 20 anni deve restituire il prestito. Quanto ti presta l'intermediario finanziario per consentirti di andare in pensione subito, quindi? Presta quegli 830 euro per 43 mesi più la copertura assicurativa, e visto che bisogna restituire questo capitale più gli interessi, per 20 anni se ne percepirebbero 930, quindi 930 euro per 20 anni invece dei 1.300 euro pieni. Iniziali. Come si fanno a fare i conti? Perché in effetti i numeri sono diversi. Si fa la somma delle pensioni che si percepisce dal momento, da oggi, fino alla vita media, la durata media della pensione. Allora, abbiamo fatto questi ragionamenti e senza anticipo pensionistico un pensionato che va in pensione a 66 anni e 7 mesi avrebbe circa 310.000 euro da qui alla speranza di vita media. Invece, entrando nell'anticipo pensionistico, ne avrebbe 258.000. Quindi 54.000 euro in meno. Ma perché? è normale che economicamente non sia conveniente l'anticipo pensionistico. Perché? Perché c'è un prestito, ci sono degli interessi, c'è una copertura assicurativa e quindi è normale che economicamente ci sia una perdita di ricchezza potenziale. Certo, versi meno contributi. Il ragionamento però è: questo costo sono in grado o lo voglio sopportare di fronte a situazioni dove magari sono inoccupato ma da meno di 30, e ho meno di 30 anni di contribuzione e quindi non sono nell'APE social. Allora magari chi è disoccupato dice resto per altri 3 anni e 7 mesi quindi, senza entrate. Il tema è la valutazione, non è... È importante quella di carattere economico, ma non è solo quella di carattere economico. Mettete tutti i fattori in gioco sui piatti della bilancia e quindi se dovessimo fare una graduatoria, Andrea, che cosa mettiamo sul piatto della bilancia? Oltre a aver fatto il calcolo, appunto, e aver capito che se la nostra speranza di vita è quella, ci perdiamo un bel po' di soldi. Nel caso estremo, ribadisco, 63 anni compiuti ieri, quindi il regime pieno. Poi magari l'anticipo che si può chiedere di un anno. E allora in quel caso, è chiaro, costa sempre l'operazione, però è misura molto inferiore, magari in quel caso una valutazione si può fare. Certo, si scende anche a 15.000 euro complessivi a vita media, ma qui il discorso è proprio il presente, vedere qual è la preferenza rispetto a lavorare o avere un reddito, non avere un reddito o invece essere in pensione. Quindi è una scelta individuale. Certo, forse chi ha un lavoro e chi è felice di lavorare probabilmente non chiederà l'anticipo pensionistico, ma altre situazioni potrebbero averne necessità. Allora, abbiamo ancora 3 o 4 minuti di tempo prima di sentire Mario da Palermo, se ce la facciamo, anche Nicoletta dalla provincia di Milano. Hai telefonato, Nicoletta. Ti sei girata di là, sei anch'io, andata a telefonare. Guarda che però prima o poi ti chiamerò, Sì? Ah, è vero, perché noi abbiamo un caso in sospeso con te, una cosa da affrontare che in realtà è molto interessante per tante persone. Ottimo, aspetto. Ve la racconterò. Se vuoi puoi anche farmi un messaggio su WhatsApp lo stesso. O scrivere un messaggio vocale. cuoredenari@radio24.it. L'APE aziendale invece, Andrea Carbone, che cos'è? Che non è l'APE quella che... No, quella è la zanzara, neanche la Vespa, niente. Però mi piacerebbe sempre anticipo pensionistico. Allora, i requisiti sono gli stessi dell'APE volontaria, quindi a compiere 63 anni all'interno della forchetta, avere almeno 20 anni di contributi. Qual è la differenza? Che nell'APE volontaria il 50% dei costi viene detratto e quindi lo Stato dà degli sgravi fiscali. Nell'APE invece aziendale, se c'è un accordo individuale tra il lavoratore e il datore di lavoro si fa parte e si fa carico di una parte del costo. Di quanta parte? In che misura? In dipende dalla sua generosità o no? In funzione dell'accordo. Ci sono dei requisiti, la legge lo dice? È in funzione dell'accordo individuale che si fa con le parti. Cos'è di fatto? È un altro modo di agevolare l'entrata in pensione. È uno scivolo, diciamo, di agevolato di ingresso verso l'età della pensione. Potrebbe per l'azienda essere un modo, aderendo all'APE aziendale, di alleggerire un po' tutti quei costi che abbiamo indicato prima. In che misura il contributo del datore di lavoro può alleggerire questo peso? È esattamente uno spostamento. Ci potrebbe essere il caso dove il datore di lavoro si fa carico di una parte dell'anticipo o di tutto l'anticipo, poi l'azienda a sua volta avrà, ma anche qui dobbiamo vedere quali saranno i dettagli, la possibilità di avere sgravi e quindi di ridurre il costo per sé. Potremmo anche avere il caso dove al lavoratore l'effetto non negativo sia azzerato. Ho la sensazione che a breve faremo un'altra bella puntata. Andrea Carbone, intanto una domanda. Mario da Palermo, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Io telefono per un problema che riguarda mia moglie, per l'APE social. Mia moglie ha terminato a febbraio tutti gli ammortizzatori sociali e il prossimo anno, a ottobre, compie 63 anni, quindi teoricamente dovrebbe rientrare nell'APE social. Quanti contributi? I contributi, ecco la mia domanda, sono 29 anni e 6 mesi. Eccoli là. Questi 6 mesi mancanti, perché deve avere 30 anni di contribuzione. Mia moglie potrebbe pagarli di suo all'INPS? Ce la fa. Allora, diciamo che qua, sì, proprio questo gesto così abbastanza intuitivo ci stava facendo Andrea Carbone. Deve sborsare un po' di soldini. Avessero le possibilità economiche per farlo, Carbone, le conviene? A logica si può fare, perché i contributi volontari, a livello pratico, leggiamo bene cosa dicono i decreti, se anche questi 6 mesi, diciamo, pagati volontariamente, entrino nei 30 anni. È un aspetto ancora nebuloso, potrebbe lo Stato magari a queste situazioni a sul territorio non ha pensato. A prescindere, verifichiamolo bene. Però teoricamente ci potrebbe stare. Grazie ad Andrea Carbone per essere stato con noi. A Nicoletta chiedo di scriverci a Cuore Denari. Nicoletta, sempre così, a noi dicono sempre. Vi discrimino. Scrivici. a Radio 24, no, allora aspetta, Cuore Denari, mi stavo pure dimenticando, Cuore Denari @radio24.it con tutte le altre domande inevase. Ci sbizzarriremo con Andrea Carbone, a cui faccio fare ricorrentemente gli straordinari appunto per queste situazioni. Grazie per essere stato con noi, Andrea. Grazie a voi. Complimenti per la consueta chiarezza che ci aiuta naturalmente a orientarci in questa giungla pensionistica che ancora noi non riguarda, perché tu lo sai che io e te staremo qua a fare Cuore Denari ancora per l'eternità. Non lo so, ma per comunque, cui vedi di curarti tutti questi malanni del weekend. Abbiamo degli esperti per te, due oggi. Non uno, due. No, perché siamo delle incontentabili. Quando le storie diventano serie, ecco, ci vogliono qua due esperti, che saranno gli esperti che ci accompagneranno per tutto il mese di maggio. Di ma intanto salutiamo il mio omonimo. Sì. Forza Carbone, e andiamo. Allora, la cantiamo tutta, Deborah, oppure... Ma questa la sappiamo. Loretta, questa la sappiamo. Altro che quando andrò in pensione. Su. Allora, ieri qua a Milano, c'è chi è andato a prendere un po' di sole, ma sì, ieri a Milano il diluvio universale, oggi finalmente è tornato il sole e insomma la primavera è pazzarella. Anche se è l'ultimo mese della primavera, quello che ci traghetterà poi a giugno, dove scatterà finalmente l'estate, ma a voi nel frattempo che effetto fa la primavera? Parliamone, iniziate a dirci se notate dei cambiamenti. Se non sapete da che parte iniziare, io partirei dal vostro naso. Come risponde quando la primavera è nell'aria? Allora, oggi l'abbiamo anticipato, due esperti qua in diretta con noi, quindi diretta Facebook, continuate a seguirci. Abbiamo il piacere di avere qui in studio con noi Francesca Puggioni, pneumologa del Centro di Medicina Personalizzata Asma e Allergie di Humanitas. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. C'eravamo sentiti solo al telefono. Sì. E finalmente oggi l'abbiamo qui in carne e ossa, mentre gioca a casa il dottor Luca Malvezzi, otorinolaringoiatra. Sì. Trova la ma strada anche lui d'occhi è sempre chiusi. Una volta sola è venuto in studio. Una volta sola, sì. Vero? E male, allora invece male. Oggi li abbiamo catturati. Acchiappati. Entrambi, due esperti che sono un po' dei coinquilini, non solo perché lavorano con Humanitas, e come sapete Humanitas ci accompagna in questo progetto che vi sta piacendo molto. Successo, altro che. E quindi vi ringraziamo, naturalmente ringraziamo gli esperti che si sono messi a disposizione in questa iniziativa che vuole raccontare la salute proprio mettendo in comunicazione i nostri ascoltatori con le loro storie, le loro domande, i loro dubbi e direttamente con un filo diretto con i nostri medici. Dicevo, dottoressa Puggioni e dottor Malvezzi, voi siete coinquilini perché avete spesso a che fare, lavorate spesso insieme, dottoressa sì. Puggioni. Lavoriamo spesso insieme perché in realtà la divisione tra alte e basse vie respiratorie è stata fatta probabilmente per non dare agli studenti troppo studio tutto insieme, quindi dall'anatomia alla funzionalità hanno deciso di fare due esami per non sovraccaricare gli studenti di medicina, ma in realtà è una divisione che non esiste perché l'aria entra nel naso e finisce nei polmoni, così come succede per l'aria succede per tutto il resto, per cui un po' è il metodo Humanitas, un po' il metodo moderno personalizzato di effettuare la medicina. Quando si parla di allergie, quando si parla di respirazione in generale, l'otorino, lo pneumologo e l'allergologo devono lavorare insieme. Noi abbiamo studi vicini, abbiamo un centro in cui lavoriamo tutti i giorni e il paziente viene inquadrato da tutti i punti di vista. Dottor Malvezzi? Anche perché, dice benissimo la dottoressa Puggioni, anche perché le patologie delle alte e delle basse vie aeree si chiamano in modo diverso ma sono la stessa cosa. Da un punto di vista infiammatorio, immunologico, sono spesso la stessa cosa. Quindi non ci può essere una visione singola della problematica. Non esiste che l'otorinolaringoiatra veda da solo, gestisca da solo la problematica delle alte vie aeree, non esiste che lo pneumologo da solo gestisca la problematica delle basse vie aeree. È necessario creare un board all'interno dell'ospedale di medici che gestisca insieme questa patologia, che la studi insieme, perché oggi rispetto al passato siamo in grado di avere molte più informazioni su questa patologia, certo. E siamo in grado di offrire al paziente un trattamento molto più personalizzato. E potreste coinvolgere anche il gastroenterologo, proprio infatti proprio nei giorni scorsi abbiamo avuto il professor Mantovani che ci ha parlato di questa bella iniziativa di questa non iniziativa, di questo progetto Humanitas Unica in Italia, che è già una realtà, sì. E mi permetto di dire che in realtà per noi medici Humanitas è già una realtà da anni, perché usiamo lavorare insieme, collaborare, quindi condividere con il paziente un percorso che cura tutte le malattie e cura la persona, non semplicemente il mio distretto o il distretto dell'altro. Adesso fortunatamente c'è anche questo percorso ufficiale sotto il cappello dell'Immunocenter, perché l'infiammazione del sistema immunitario può colpire il naso, può colpire il tratto gastroenterico, ma può colpire anche con patologie reumatiche, così come appunto naso e polmoni, per cui lavorare insieme adesso è anche molto facilitato dall'organizzazione. Quindi prima si andava dal medico, adesso si va da un'equipe di esperti che lavorano insieme. Allora, tutto qua, 800 24 0024, e questo è il nostro numero verde, sempre a vostra disposizione per entrare dentro la nostra trasmissione, ma io partirei con una batteria di domande per aiutare i nostri ascoltatori a sentirci più chiaro. Il raffreddore dura a lungo, ti sembra non passi mai? Quando ti soffi il naso respiri meglio o non provi alcun miglioramento? Senti la testa pesante e dolente, specie nella zona della fronte e degli occhi. Come senti gli odori? Chiari e distinti o un po' sfumati? Allora, siamo partiti da questa batteria di domande, perché quando la primavera è nell'aria, o quando insomma inizia questa stagione che noi individuiamo con quella delle allergie, il raffreddore non sappiamo bene come interpretarlo. È competenza dell'otorino, è competenza invece dell'allergologo, possiamo naturalmente gestirlo da soli, ma è importante, e il naso ci dà l'occasione, partire magari dalle condizioni, dalle reazioni del nostro naso per capire qualche cosa di più, non per fare autodiagnosi ma per orientarci. Ci aiutate allora, dottor Malvezzi e dottoressa Puggioni, a contestualizzare un po' queste domande? Che cosa ci raccontano questa batteria di domande? Dottor Malvezzi, perché è importante la durata del raffreddore, questi nasi che sono sempre lacrimanti o in alcuni momenti della giornata, questa sensazione di benessere che alcuni provano soffiandosi il naso, altri invece è assolutamente uguale, o quella testa così pesante, un po' dolente, sembra mal di testa, ma sentiamo dentro di noi che tutto dipende dal naso, e anche naturalmente il naso chiuso non ci fa annusare e quindi catturare gli odori, e quindi questa sensazione un po' di malessere generale. Quali sono gli elementi interessanti? Allora, la prima cosa importante che ci raccontano è che dovremmo di più ascoltare i nostri pazienti, nel senso che già l'anamnesi è una cosa molto importante, è una pratica che non dovremmo mai abbandonare, e quanto hai detto, Nicoletta, già ci racconta su cosa possa avere o non avere un paziente. Poi racconto io molto. Poi racconti tu, come, che oggi per come vedo sono un abbastanza po' congestionata. Ma sei in grande miglioramento. Sì. Dai. Allora, intanto per precisare, il raffreddore ha un'entità temporale. Il raffreddore dura 5-7 giorni, massimo 10 giorni. Quello che gli inglesi chiamano common cold, che noi chiamiamo raffreddore, che è una rinosinusite virale, dura poco. Il paziente guarisce da solo, il paziente si può automedicare, lavarsi il naso, fare i fumenti, utilizzare prodotti naturali. Il raffreddore che dura più di 10 giorni non è un raffreddore, è una rinosinusite. E allora spesso, se si interroga il paziente, si scopre che c'è qualcosa di più, c'è una congestione nasale persistente per lunghe ore durante la giornata, c'è il paziente che si soffia il naso ma non riesce a sbloccarsi, c'è il paziente che ha una percezione dell'olfatto diversa, a volte del gusto diversa, che si sente la testa piena, un po' come se fosse sott'acqua. Tutto questo quadro sintomatologico è qualcosa di diverso dal raffreddore. È qualcosa che assomiglia di più a una rinosinusite. Allora poi, se si va ancora ad indagare, le secrezioni non sono più chiare ma sono gialle, e poi si può scoprire che il paziente ha questo tipo di situazione ripetitiva nel corso dell'anno, oppure nel corso dell'anno presente solo in alcuni periodi, e allora la palla passa che il nostro esperto possa essere la dottoressa Puggioni, perché sì, in realtà anche... io mi permetto di dire che nella nostra equipe il paziente è molto presente, quindi medicina personalizzata significa anche che il paziente non deve farsi ovviamente l'autodiagnosi, perché per quello ci siamo noi, ma il racconto del paziente, le osservazioni del paziente, il diario clinico del paziente sono fondamentali, cambia l'approccio del paziente che ci dà due informazioni e poi noi ci basiamo solo sui test clinici. La sua storia è assolutamente fondamentale perché lui vive questi sintomi, quindi sa in che situazioni della giornata, dell'anno, da quanto tempo ha questi sintomi. E la caratteristica dell'allergia, ad esempio, è proprio la ripetitività. Quindi nella stagione primaverile è anche facile pensare a un'allergia. Tante volte se si parla di polline, ad esempio di composite, ambrosie o di muffe come l'alternaria, che capitano nel periodo di passaggio tra l'estate e l'autunno, è più difficile perché con i cambi di temperatura uno pensa subito a un'infezione virale, mentre invece magari è un problema allergico. E poi ci sono persone che sono allergiche, ci sono allergie che durano tutto l'anno. O allergie che si sommano, perché se siamo polisensibili alle graminacee, alle composite, agli acari della polvere, eccetera, il periodo di pollinosi si somma e anche se si è allergici a degli allergeni che noi chiamiamo stagionali, ma la stagione per certi pazienti, poverini, non passa mai. E sappiamo, tra l'altro, dottoressa Puggioni, che le allergie non hanno età, possono insorgere nei primi anni di vita o più in là negli anni, e possono però anche regredire perché il nostro sistema immunitario cambia nel tempo e può sviluppare delle tolleranze, si abitua o contatto dopo contatto sviluppa anticorpi verso nuove cose, sì, corretto? Diciamo che c'è una piccola speranza? È una piccola speranza, è molto democratico per quanto riguarda l'esordio. Sì, non guarda in faccia a nessuno. No, non risparmia nessuno. Ci sono delle situazioni in cui può cambiare il nostro sistema immunitario che per una volta sono dedicate più alle donne che agli uomini, come ad esempio i grandi cambi ormonali, per cui la pubertà, la gravidanza, la menopausa. Non abbiamo però ancora degli studi che ci dicono se questi cambi ormonali particolari possono essere con esito positivo o negativo, perché a volte i sintomi invece peggiorano nettamente e quindi la gestione di questi periodi, che è già delicata, diventa addirittura più difficile per colpa delle allergie. I numeri degli allergici, tra l'altro, continuano ad aumentare. Sentivamo il dottor Fiocchi pochi giorni fa dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che ha definito come uno tsunami allergico. Ne parleremo naturalmente nel corso della trasmissione, mentre col dottor Malvezzi parleremo anche di polipi nasali. Tra l'altro c'è una relazione tra anche in questo, polipi nasali, mettono di nuovo otorino e allergologo a lavorare insieme? Insomma, voi due dovete proprio, siete uniti nella buona e nella cattiva sorte. Allora, tanti nasi, tante storie, raccontatemi la storia del vostro naso, ma parleremo naturalmente anche di asma. Diteci che cosa irrita il vostro naso, che cosa gli piace, se riconosce bene gli odori, se invece fa un po' di confusione, se prude, gocciola, si arrossa. Un altro dettaglio forse è importante, aiutatemi voi. La vostra voce è cambiata, vi capita che qualcuno vi chieda al telefono ma sei raffreddata, quando non avete, io sono raffreddata adesso, la sensazione di avere il raffreddore, e il vostro olfatto, ecco, che cosa riesce a catturare? Sentite gli odori? Ne sentite alcuni più di altri? 800 24 00 24, restate con noi, adesso andiamo a vedere, a sentire i mercati. Di allergie non ne hanno, ma un po' allergici, allergici magari alle, come dire, adesso situazioni politiche un po' precarie, un po', sì, però dai. Oggi mi pare di vedere il sereno. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Mamma mia. Aggiungo anche il mio. Prima della fine della diretta vi faccio anch'io uno starnuto. Parliamo di naso perché abbiamo dedicato il mese di maggio all'apparato respiratorio e siamo partite dal naso, anche se, come ci hanno detto i nostri esperti, che sono qua in studio con noi in diretta Facebook, sì, e la cosa vi piace un sacco. Sto controllando, stanno, un sacco di state complimenti. State apprezzando molto perché sono bravi, sono chiari, sì, ci aiutano a venire a capo del nostro problema. Parliamo di naso, ma parliamo dell'apparato respiratorio, come ci hanno spiegato il dottor Malvezzi e la dottoressa Puggioni. Non le alte e le basse vie respiratorie sono state separate per favorire lo studio degli studenti, ma sono strettamente collegate, sono confinanti e quindi necessariamente si deve... proprio la stessa cosa. La stessa cosa. Dal punto di vista anche biologico, di anatomia, l'epitelio è lo stesso e quindi non è una divisione, è la stessa casa didattica. Ecco. Allora, abbiamo per così facilità parlato del naso perché è questa sentinella che ci avverte un po' di che cosa sta succedendo, e da quello che passa attraverso il naso poi deriva anche il benessere dell'apparato respiratorio tutto. Come funziona il vostro naso? Respirate bene? Soffrite di naso chiuso? Avete mal di testa, specie nella zona della fronte? Allora è arrivato il vostro momento. Siete allergici? Restate per essere aggiornati anche sulle novità, ma anche per conoscere le attenzioni e le precauzioni che potrebbero aiutarvi a superare con maggiore facilità questo periodo delicato. Parleremo necessariamente anche di alimentazione e di stile di vita in genere. 800 24 00 24. Andiamo subito a Elisabetta dalla provincia di Bergamo e poi a Maurizio da Monza. Mettiamo subito alla prova i nostri esperti. Buongiorno ad Elisabetta. Buongiorno carissime, veramente tutti carissimi siete. Allora, volevo dire il mio, non so se riesco a spiegarmi bene, il mio naso, riguardo il naso, ho sempre la sensazione, quando specialmente sto in mezzo alla gente così, che una goccia mi scende da questo naso e continuo ripetutamente a così asciugare le narici. Cosa devo fare? Devo andare da uno specialista o devo andare dal neurologo? Non lo so, ditemi cosa devo fare. Grazie, perché è una sensazione alquanto fastidiosa, la sto provando io in questo momento, e poi mettiamo subito anche Elisabetta, il dottor Malvezzi è tutto suo tra poco, ma sentiamo anche Maurizio da Monza, senza dalla provincia, da Monza Maurizio, che sì, buongiorno. Avrà bisogno invece dell'aiuto della dottoressa Puggioni. Maurizio. Sì, buongiorno. Io ho una caratteristica, il mio naso è soprannominato gas cromatografo, mi occupo di rifiuti e tutti gli odori li sento, li percepisco, li analizzo. Poi questa stagione invece rimango bloccato perché i pollini mi tagliano fuori tutti gli odori che dovrei percepire e sentire, quindi il naso che mi prude, continuazione starnutini, starnutoni, tra l'altro guido anche il camion e la cosa disturba molto anche la guida. Certo. E quindi ho questo problema. L'altro problema è invece con l'erba ambrosia. Quindi rientro dalle vacanze estive dalla Toscana a fine agosto, che sono con i polmoni belli liberi, appena arrivo dentro a Milano, Brianza, l'erba ambrosia. Allora io voglio dire, Elisabetta e Maurizio, sono bravi i nostri ascoltatori, hanno descritto un profilo perfetto, ci vorrebbe cioè su Facebook arrivano i complimenti per noi, ma io giro i complimenti anche ai nostri ascoltatori che ci aiutano proprio partendo dal loro caso, dalla loro storia, a dare delle indicazioni che possono essere utili anche a tutti coloro che si ritrovano nella loro situazione. Dottor Malvezzi, iniziamo da questo naso, questa sensazione di avere sempre la goccia al naso. Ecco. Sì, Elisabetta, no, direi che il neurologo per il momento può aspettare. Bravissima a descrivere il sintomo. Prima la dottoressa Puggioni parlava di rinite allergica e tu, Nicoletta, dicevi si può essere allergici tutto l'anno. Sì, è vero, però non bisogna dimenticare che si può anche avere una rinite non allergica. Ovvero, cioè il paziente può non essere allergico, ma può esprimere la mucosa del paziente allergico le stesse caratteristiche che ha il paziente allergico, perché la composizione cellulare di quella mucosa è caratterizzata da una popolazione di cellule che poi sono le stesse che in una certa misura dominano l'allergia, e questo è merito degli italiani che l'hanno scoperto, l'hanno studiato nel corso di questi ultimi anni. Quindi sicuramente per Elisabetta la risposta è sì, deve farsi vedere da uno specialista, che non è il neurologo ma è l'otorino, laringoiatra, e poi l'otorino laringoiatra deciderà di inviarlo all'allergologo per studiare se c'è una situazione allergica, oppure si farà un esame banale, la citologia nasale, che servirà per capire che tipo di popolazione ha. Se è un naso ribelle, Se è un naso ribelle, esattamente. Poi Elisabetta ha detto anche un'altra cosa importante, che hai accennato anche tu. Il fatto che a volte la sintomatologia insorga in certe situazioni particolari. Questo è molto importante perché certamente lo stile di vita, ma anche il luogo dove abitiamo, gli ambienti che frequentiamo, possono in qualche misura incidere sulla sintomatologia. La dico molto banalmente, certamente un paziente che ha un profilo patologico, tra virgolette, nasale, allergico, pneumologico, sta peggio a Milano con la nebbia che non alle Maldive, Ok? Eh beh, certo. E quindi indubbiamente l'ambiente che frequentiamo ha un ruolo importante, anche questo è una delle tante sfaccettature delle patologie del naso, delle allergie del naso. Sì, da aggiungere cioè che l'inquinamento non è solo dannoso per tutti, ma in particolare per gli allergici, perché le molecole, il famoso PM10, ma anche tutti i gas sulfuri, creano sulle vie respiratorie dei, chiamiamoli microscopici buchi, ma in realtà non è proprio così, che però rendono la mucosa del naso e delle vie respiratorie più suscettibili anche alle infezioni, all'infiammazione. Di conseguenza è anche più facile che gli allergeni poi passino in circolo attraverso questi danni della mucosa. Quindi nei momenti di inquinamento maggiore non si hanno solo i problemi legati all'inquinamento, ma anche a quelli dei pazienti allergici, perché le difese immunitarie del naso e del polmone vengono meno per colpa del danno fisico proprio infiammatorio delle molecole, sia dell'inquinamento automobilistico che quello industriale o quello domestico. Quindi, e allora ne dico un'altra, sì, visto che ci sono. No, perché fa una gara d'appello. Proprio per quello che diceva, un rilancio, per quello che diceva la dottoressa Puggioni, ad esempio il paziente che ha questo profilo è un paziente che è uscito dalla vasca in piscina dopo aver fatto una bella nuotata, il naso che si chiude completamente perché il cloro è un irritante su una mucosa non integra a livello nasale, può scatenare una reazione di congestione nasale. Prima di diamo l'indicazione al nostro amico di Monza che è allergico, allora, poi vorremmo avere da voi anche delle indicazioni sullo stile di vita. Che cosa si può fare per rendere questa mucosa meno sensibile o che ci dia meno problemi? Allora, la prima regola è: stiamo in vacanza in Toscana, non rientriamo in autunno a Milano, certo. mi domando. La seconda cosa è ci sono delle cose che noi possiamo fare al di là della terapia, al di là della diagnosi, al di là che poi si parli di immunoterapia specifica, biologici o farmaci. La prima regola è evitare l'esposizione all'allergene, no? È ovvio che con i pollini non è come il gatto, il cane o gli acari della polvere, non è così semplice, però per chi ad esempio deve guidare, la prima regola è quella di cambiare il filtro del veicolo molto frequentemente e utilizzare i filtri antipolline. Con questi filtri l'aria che passa dentro l'abitacolo del camion in questo caso non sarà piena di allergeni. Se no è una specie di aerosol. Altrimenti è una specie di aerosol. Questi filtri vanno cambiati molto frequentemente, però si ha una riduzione dello stimolo dell'allergene che arriva addirittura al 60-70%. È molto pericoloso starnutire alla guida, quindi mi permetto di dire: mettiamo i filtri antipolline, utilizziamoli anche nel condizionatore di casa, e questa è una delle regole principali. Laviamoci spesso il viso e le mani, perché soprattutto nei momenti in cui noi sudiamo, siamo all'aria aperta, gli allergeni si appiccicano alle nostre mani, ai nostri visi, e anche quindi capelli, vero? Ai capelli e ai vestiti. Se ad esempio si decide di andare all'aria aperta dopo che si riceve la giusta prescrizione di farmaci per tollerare magari il picnic o la scampagnata, quando si ritorna a casa la prima cosa da fare è togliersi i vestiti che si avevano addosso al parco, lavarsi bene gli occhi, la faccia, le mani e se si può una bella doccia, proprio perché anche i capelli sono comunque ricettacolo di allergeni, così come di tutte le altre sostanze. Quindi ci sono delle piccole cose che possiamo fare nella vita quotidiana. Se ad esempio andiamo in moto, utilizzare un casco integrale, ci sono anche per le biciclette adesso, e stanno arrivando dall'America anche delle piccole mascherine con i filtri antipolline, per cui su certi siti online si possono trovare e sono molto utili per i pazienti allergici, perché così possono fare attività all'aperto lo stesso. E a proposito di siti, me ne è venuta lancia delle straordinarie spunti, ricordatevi che sulla pagina di Cuore Denari trovate il link con Humanitas, con il vero falso, le indicazioni, le risposte dei nostri esperti, e se volete saperne di più fate la vostra domanda, potete farla al 349-238-6666 lasciando un WhatsApp vocale, oppure scrivendo a salute@radio24.it che per animare con le vostre domande la salute viene parlando. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo subito dopo insieme. C'è Luciano che ci aspetta da Roma, ma tante indicazioni anche a partire dallo stile alimentare, dottor Malvezzi. Ma dello stile alimentare sì, ne parlerà di più la dottoressa Puggioni. Con lei parleremo anche di polipi, non mi sono dimenticata. Non dimentichiamoci di lavare anche il naso. Certo, e fra quello, tutto dottor il Malvezzi, naso questo l'aveva lasciata l'esperta. Il lavaggio del naso è una nostra grande battaglia, vero? Sì, sì, a tra poco. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta. Cuore e denari. E siamo tornati insieme. Allora, diamo subito la parola a Luciano che ci chiama da Roma. Luciano, buongiorno. Eccolo. Buongiorno a lei, siete sempre la mia trasmissione preferita. Oh, ma Luciano, averlo saputo, la chiamavo su ancora. Mi chiami pure domattina, ecco, mi raccomando. Bravo, mi raccomando. Bene, allora, io ho sofferto per 6 anni di asma difficile con 10 episodi l'anno di bronchiti, o le chiamano esacerbazione. Abbiamo fatto di tutte le prove pneumologiche, allergiche, eccetera, fino a che abbiamo scoperto 2 mesi fa che avevo una sinusite cronica, come si dice, asintomatica, per cui da 2 mesi trattando la sinusite con lavaggi, insufflazioni, eccetera, sono migliorato moltissimo. Adesso vorrei sapere, andando avanti, probabilmente ci sono dei polipi, cosa posso fare per risolvere il problema del naso? Ecco, allora, dottor Malvezzi, vedo che tanto che il nostro amico Luciano parlava, lei annuiva come per dire questo. Viene, è una storia grande che lei conosce. Bene. È un problema grande. Ecco. È un problema grande perché molto frequentemente è quello che dicevamo, che abbiamo detto fino ad ora, molto frequentemente il problema viene affrontato in modo settoriale e quindi si perde il punto di vista su un'altra problematica. Il naso, i segni paranasali possono essere il trigger, l'innesco della patologia sulle basse vie aeree. Spesso la rinosinusite è la causa di tutto questo, che può essere una rinosinusite che non si manifesta in modo eclatante. A volte non si manifesta in modo eclatante semplicemente perché il paziente si è abituato ad uno stato di malessere, quindi ha imparato a respirare male, a convivere con la sua cattiva respirazione, ha imparato ad avere il naso sempre con una certa quantità di muco presente, quindi a non sentire in modo eccezionale l'olfatto, ma quella è la sua percezione, quindi certo, non avendo un termine di paragone col benessere. Non succede anche spesso nelle patologie della vista, perché molto spesso la compensa, il nostro corpo compensa e questo è un danno alla fine. Questo è un danno che porta alla cronicizzazione di una patologia che già di per sé ha la tendenza a cronicizzare, che può esprimersi, come in questo caso, come nel caso del nostro nostro ascoltatore, con una rinosinusite cronica, a volte con i polipi, a volte senza polipi, perché le rinosinusiti, le malattie delle vie aeree, alte e basse vie aeree, sono estremamente eterogenee, quindi si manifestano in tanti modi diversi. Prima abbiamo parlato di riniti, poi di rinosinusiti. Riniti e rinosinusiti possono essere la stessa cosa in 2 momenti diversi della loro storia naturale. Di fatto si parla di rinosinusiti dal 1996 in poi, prima si parlava solo di sinusiti, si parla di rinosinusite con poliposi nasale dal 2000 in poi, prima si parlava di poliposi nasale e basta. Sono tutte espressioni della stessa patologia, di una stessa problematica infiammatoria delle alte vie aeree. Quindi sì, certamente è importante inquadrare il problema, è importante studiarlo, soprattutto è importante studiare le caratteristiche di quella patologia, perché oggi, a differenza del passato, lo dico ancora una volta, non si applica più un trattamento standard, che può essere steroideo locale, steroideo sistemico, chirurgico, ma si sceglie un trattamento specifico a seconda del tipo del paziente che abbiamo davanti. E oggi, da un punto di vista farmacologico, abbiamo molto di più rispetto al passato, con molti più vantaggi per il paziente, anche a scapito di quello che è il mio lavoro, della chirurgia, ma con visti gli effetti benefici, si va su quel tipo di trattamento. Li abbiamo nominati tante volte, anche Luciano ne ha parlato. Parliamo di polipi. Il nome è già un programma, perché dal greco antico ho letto che significa molti piedi. Perché questi ospitini delle vie aeree possono crescere e occupare un po' per volta gli spazi vuoti delle cavità nasali, espandendosi nei seni paranasali e fino alle fosse nasali e oltre. Ma, dottor Malvezzi, quali sono i segnali che mi possono far venire il sospetto che il mio problema possa derivare dai polipi? Ci sono delle, c'è un profilo del poliposo, un identikit, ad esempio? Che cosa, come si comporta? Che cosa fa il suo naso? L'identikit è difficile. Diciamo che tanti anni fa in certe forme di poliposi nasale c'era l'identikit. Faccio una piccola premessa. Il nostro naso non è quello che vediamo. Il naso che vediamo, la parte, l'escrescenza che abbiamo sulla faccia, è una piccola parte del nostro naso, così come le fosse nasali sono una piccola parte del nostro naso. Noi dobbiamo pensare il nostro naso nella faccia, nel massiccio facciale, che è una struttura con tante stanze, con tanti anfratti. Quindi, visto che abbiamo Facebook, togliamo il naso. Esatto, e si il può aprire la nostra faccia, è come questa, come questo palazzo, tante stanze, ognuna delle quali, seni paranasali si chiamano, comunica con il naso attraverso un percorso labirintico. Come l'ha chiamato? Massiccio nasale. Sì. Massiccio. I seni paranasali. Che è questa, i seni parte, paranasali. Questa parte, tutto in profondità, quindi ci sono delle, come un alveare, ci sono, esatto, delle piccole stanzette dove l'aria passa, viene umidificata, la temperatura viene aggiustata secondo quella che è la necessità dei polmoni, viene filtrata attraverso delle cellule che hanno dei piccoli peletti che buttano via anche virus, allergeni in condizioni normali, ma che quando si ammalano non funzionano più, e allora a quel punto il mio vicino di casa, che è lui. Butta giù tutto quello che dovrebbe essere buttato fuori o comunque trattenuto, quindi è sempre colpa del vicino di casa superiore. Certo. Quindi il naso è una parte, i seni paranasali sono quello che completano la struttura della nostra faccia in un certo senso. E allora i polipi, che crescono generalmente nell'interfaccia anatomica fra naso e seni paranasali, cioè dove i seni paranasali comunicano col naso, comunicare significa da dove prendono aria, da dove espellono le secrezioni, lì il polipo innesca la patologia. Ecco. Perché cosa succede? Succede che il paziente inizia ad avere un drenaggio delle secrezioni meno efficiente, quindi le secrezioni si raccolgono nei seni paranasali, si sovrainfettano e arriva la sinusite, certo, cronica, ricorrente, acuta. Cosa succede? Succede che il paziente vive in una sorta di congestione continua. Succede, a volte, che la chiamano ovattamento. Ovattamento. I milanesi la definiscono in un modo brillante, ecco, la testa nel balurdun. La testa nel balurdun, bella! Ok, e questa situazione a cui si aggiunge la riduzione dell'olfatto, perché i filuzzi, certo, olfattori arrivano, perforano la base cranica, quindi è un po' come se noi andassimo in giro col naso chiuso tutto il giorno, portano ad avere un'implementazione, un aggravamento sempre più importante della sintomatologia. Certo, il polipo, che è l'espressione dell'infiammazione, tende a crescere sempre di più e a occupare sempre di più la fossa nasale quando cresce, quindi si aggiunge un'ostruzione respiratoria sempre più marcata. Si può aggiungere cefalea, tu, sì, prima parlavi di dolore. Certo, il dolore da sinusite, tipicamente quel dolore localizzato a livello frontale, ma pensiamo anche al senso di peso a livello mascellare. Sì. Ci si sveglia la mattina con gli occhi segnati, con le borse sotto gli occhi. Tutto questo quadro clinico più o meno importante è il quadro clinico associato, è l'identikit del paziente che può avere ma una polipose. Dottor Malvezzi, il quadro devo dire complesso, è un po' inquietante. Ah. No, perché c'è la cura. Brava, però c'è la cura. C'è da cura, che cosa, ma è una cura che è farmacologica, chirurgica, ecco, allora, entrambe le cose, è il punto si importante, riesce, questo è il punto importante, perché la diagnosi clinica di poliposi nasale oggi è estremamente semplice, basta fare un esame, una visita otorinolaringoiatrica, un esame endoscopico delle fosse nasali, chiunque sa riconoscere un polipo, ma quello non è il problema, non è il problema riconoscere il polipo e riconoscere la patologia. Abbiamo prima parlato di anamnesi, tutto questo che vi ho raccontato, quando il paziente a raccontarlo porta verso a una diagnosi di questo tipo. Il problema è studiare il paziente, il problema è organizzare un tour all'interno dell'ospedale con una board di medici che coinvolga l'allergologo, lo pneumologo, a volte anche altri specialisti. Il paziente deve essere studiato, devono essere studiate le caratteristiche del nostro polipo nasale, perché sì, il polipo, come dicevano i greci, è vero, ha tante propaggini, ma queste propaggini nascondono anche tanti aspetti immunologici diversi. tante forme di poliposi diversa e ogni forma di poliposi nasale merita un trattamento personalizzato. Ci sono polipi che meritano un trattamento chirurgico, ci sono polipi che con il trattamento chirurgico spariscono, non ritornano più, non recidivano, e oggi la chirurgia è un atto delicato per il paziente, con un'ospedalizzazione breve, con nessun dolore post-operatorio. Ci sono polipi nasali in cui la chirurgia oggi deve avere un ruolo limitato, non deve più avere un ruolo prepotente ed esuberante come negli scorsi anni, ma deve essere data alla farmacologia un ruolo più importante. E da questo punto di vista, non alla farmacologia del passato, il cortisonico, che è un antinfiammatorio, come dire, per rubare un termine dall'antibiotico terapia a largo spettro, no, con l'utilizzo di antinfiammatori più specifici. Più diretti verso alcuni meccanismi dell'infiammazione e quindi più idonei al trattamento di queste, di quelle particolari forme. Quindi ottime speranze. Se vi siete, sì, come me, perché io mi sono sentita assolutamente descritta, vi riconoscete in questa situazione, ragazzi, possiamo farcela. Ecco, già aver capito che siamo noi è già un passo avanti. Dottoressa Puggioni, vengo da lei in un minuto per parlare anche di flora batterica intestinale, i cambiamenti della composizione della flora batterica intestinale possono essere implicati nell'insorgenza dei disturbi allergici. Vero o falso? Vero, tanti studi devono essere ancora fatti, ma sicuramente l'allergia è un problema del sistema immunitario che invece che focalizzarsi verso una produzione di certi globuli bianchi si focalizza verso un altro tipo di produzione con altri anticorpi, e il nostro apparato gastroenterico, che comunque è grande fonte delle nostre difese immunitarie, sicuramente può aiutarci. Quindi con ad esempio il professor Danese in Humanitas collaboriamo molto, perché l'utilizzo di al di là della diagnosi, ma anche di alcuni tipi di probiotici oppure di alcuni tipi di farmaci, può aiutare il paziente allergico in questo senso a migliorare la potenza del suo sistema immunitario. Allora, maggio, il mese del nostro apparato respiratorio, la dottoressa Puggioni, il dottor Malvezzi a vostra disposizione, domande, dubbi, richieste alla salute @radio24.it oppure con un WhatsApp, e ci sentiamo giorno per giorno con i nostri esperti. Grazie a voi. Grazie a voi. Buona giornata, noi torniamo domani. Ci siamo anche domani, buona giornata a tutti.